Allora, nel Perek Gimel, terzo capitolo di Masechet Sukkah, Mishnah Yud Alef, proseguiamo sul tema del Hallel. Abbiamo già letto nella Mishnah precedente qualche halakha che riguarda il Hallel. Ora, la Mishnah aggiunge riguardo l'Hallel che ci sono alcune cose che sono obbligo, altre sono minhagim, e quando si tratta di un minhag bisogna seguire il minhag, l'usanza del luogo in cui ci si trova. Di cosa si tratta? L'ultimo salmo del Hallel, l'ultimo paragrafo grande che è Mina Metzar Karati, è un salmo, se voi vedete anche nella traduzione o no, non nella traduzione, è un salmo che è tutto ripetitivo, è una poesia che funziona con una cadenza doppia. Ogni verso ripete in altre parole la stessa cosa. Mina Metzar Karati ka, Anani ba merchav ka. Lo amut che va a saper masseca, c'è sempre il doppio chi amilam, e di nuovo chi amilam. Ogni cosa si ripete finché si arriva verso la fine odecha chi anitani, lì non si ripete più. Gli ultimi versetti non sono ripetitivi. Allora esiste un minhag, e così noi usiamo oggi, ma non sempre si usava così, non in ogni luogo, di ripetere questi versetti per intero, visto che non sono ripetuti nel Salmo stesso. Allora diciamo Odecha ki anitani, ripetiamo Odecha ki anitani, ze hayom asa, ripetiamo ze hayom asa, e così Anashe Moshiana, ripetiamo Anashe Moshiana, tutta la fine è ripetuta perché non è ripetuta nel Salmo stesso. Allora la Mishnah dice Makom shenahagu lichpol, là dove si usa nel Minhag di ripetere gli ultimi versetti da Odecha ki anitani in poi, allora si ripetono, Yichpol. Quando invece ci si trova in un luogo in cui l'ifshot si usa a dire semplicemente dalla parola pashut, senza ripetere, ok? Allora Yifshot, allora si dicono solamente una volta anche questi ultimi versetti, così come sono scritti nel libro dei Teilim, che non sono ripetuti nel salmo originale. Questo è un minhag che riguarda il ripetere gli ultimi versetti dell'Hallel. E la Mishnah ci insegna che la cosa dipende dal minhag del luogo. La seconda cosa che dipende dal minhag del luogo è Levarech Acharav, di dire la Berachah dopo l'Hallel, Yaleluch Hashem kol maasecha v'chasidecha, e si conclude Baruch Ata Hashem, Melech Meulal Batishbachot. Tu sei lodato attraverso le lodi che noi abbiamo fatto nel Hallel. Questa è una berachah conclusiva dell'Hallel e poi si dice il Kaddish. La Mishnah ci insegna che la berachah che precede l'Hallel è un obbligo, visto che è una mitzvah dire l'Hallel e prima di fare una mitzvah noi diciamo una berachah, allora la mitzvah di dire Asher Kiddeshanu, Mitzvotav Tzivanu, Likro, et Hallel, o Ligmor et Hallel, questo è un obbligo e su questo non ci sono minhagim diversi, diverse usanze. Invece la Berachah che è successiva, che segue l'Hallel, allora qui c'erano almeno, oggi non sembra che ci siano più usanze diverse, oggi tutti fanno questa Berachah dopo l'Hallel, però quando c'erano usanze diverse anche questa cosa dipendeva dal Minhag HaMakom, dall'uso del luogo, quindi Levarech Acharav, se nel luogo si usa fare la Berachah successiva all'Hallel, allora Yevarech Acharav, va fatta la Berachah. Hakol ke minhag medina. Tutte queste due cose vanno fatte secondo l'uso del luogo in cui ci si trova. Ora la Mishnah aggiunge un'altra halakha che riguarda il lulav, ma non riguarda l'alel più. Torniamo a parlare dell'ulav. Halokeach lulav mechavero basheviit. Se una persona acquista un lulav, e come vedremo si intende probabilmente tutte e quattro le specie insieme, da un venditore che vende le quattro specie, Arba Minim, e lui va e acquista un lulav etrog, eccetera, però è Bashevit, è l'anno, settimo anno, è l'anno della Shemitah, è l'anno sabbatico, in cui in questo anno c'è un divieto di commerciare con la frutta dell'anno sabbatico. Ok? In teoria non si può comprare e vendere il cibo, il frutto dell'anno sabbatico. Allora, visto che lui acquista questa cosa da qualcuno che non si sa di che livello di osservanza è, quindi am ha'aretz, significa c'è il dubbio se ci si può appoggiare alla sua, diciamo, se ci si può fidare dell'accortezza di questa persona in questi ambiti halachici, allora in quel caso cosa dovrebbe fare? Noten lo etrog be matana, dovrebbe chiedere al venditore di dargli l'etrog non come vendita, ma come regalo, matana, come dono. Perché? Perché le fische en rashai le lokho bashevit, dice la Mishnah, perché non abbiamo il permesso di acquistarlo durante l'anno del anno sabbatico. Perché proprio l'etrog? La Gemara spiega, il lulav è qualcosa che sicuramente è già sbocciato, è già cresciuto prima che iniziasse l'anno sabbatico. Per avere un lulav pronto a Sukkot, è chiaro che doveva già essere pronto prima che è entrato il settimo anno, prima di Rosh Hashanah e sicuramente ancora prima di quello. E visto che, per ciò che riguarda il lulav, per la Kedushah dell'anno sabbatico si parte da quando sboccia, e sicuramente questo lulav era sbocciato molto prima che è iniziato l'anno sabbatico, e quindi non rientra nella Kedushah della Shevi'it. Quei lulavim che sbocciano in quest'anno, nell'anno sabbatico, forse l'anno prossimo non li puoi usare, perché sono sbocciati lì. Ma l'etrog, ogni frutto c'è la Masechet Shevi'it, il trattato della Shemitah, che spiega le differenze tra ogni frutto quando è considerato che rientra nel momento dell'anno sabbatico. L'etrog viene considerato nella Kedushah dell'anno sabbatico nel momento in cui lo si coglie dall'albero. Non guardiamo quando sboccia, non guardiamo quando matura, no, tutto questo non ci interessa. Noi guardiamo per l'etrog il momento in cui viene tolto, colto dall'albero. Quello è il momento, se ci si trova nell'anno sabbatico, allora assume la kedushah dell'anno sabbatico. Di conseguenza il problema è soprattutto per l'etrog. Allora la Mishnah dice, fatti dare l'etrog in regalo, così non entri nel divieto di commerciare nella Shevi'it. Significa, in altre parole, il venditore potrebbe magari includere il prezzo dell'etrog, se gli serve, nel prezzo dell'ulav e le altre specie, per far sì che l'etrog sia dato come dono, come regalo e non come vendita. Ok? Come? Faccio dopo la fine adesso. Qual è la domanda? Che questa missione abbiamo concluso, poi c'è l'altra missione. Praticamente ci sta, ho letto praticamente sul prezzo giusto, no? Per cui uno potrebbe dire, cioè, includo il prezzo delle droghe nelle altre specie, però poi di fatto io quando vado a comprare le altre specie, Includo anche le trog. esatto, sì, però esatto, perché se io lo pago a un prezzo maggiorato, quel prezzo maggiorato non è onesto. Assolutamente sì. Allora, in realtà, questo sarebbe solo in caso che non sarebbe d'accordo a venderlo, a darlo proprio in regalo. In altre parole, i commentatori dicono, e nel Rambam, e lo riporta anche il commentatore Rabbi Ovadia di Bartinora, che lui dovrebbe dargli proprio come regalo le trog per l'alaha. Se non è d'accordo, allora deve almeno includerlo nel prezzo dell'ulav. Quindi è come a posteriori, se non si può risolvere meglio, si risolve così, giustamente. Un'eccezione. Sì. Ora la Mishnah dice riguardo prendere il lulav, cioè fare la mitzvah dell'ulav e l'etrog, quando è? In che giorni c'è questa mitzvah? E la Mishnah spiega che c'è una differenza tra quando c'era il Beit HaMikdash e quando non c'è il Beit HaMikdash. Mishnah Yud Gimel 13. Dice la Mishnah, scusate, Yud Bet 12. Barishonah, prima, cioè quando c'è il Beit HaMikdash, Hayah lulav nital b'Mikdash shiv'ah. Il Mikdash era preso, cioè si faceva la mitzvah dell'ulav per tutti e 7 i giorni della festa di Sukkot nel Beit HaMikdash. Visto che i maestri spiegano, è scritto Smachtem lifnei Hashem Elokechem Shivati Amim, che dovete gioire dinanzi ad Hashem, il vostro Signore. Dinanzi ad Hashem significa nel Beit HaMikdash, secondo questa derashah. Perché per 7 giorni, i maestri dicono che bisogna gioire con il lulav per 7 giorni davanti ad Hashem, cioè nel Beit HaMikdash. Ma Uba Medina, nel resto del posto, cioè fuori dal Beit HaMikdash, secondo molti anche a Gerusalemme stessa, fuori dal Beit HaMikdash e sicuramente nel resto di Eretz Israele, nel resto del mondo, non c'è questa mitzvah. Yom Echad, il lulav viene fatta la mitzvah solamente il primo giorno della festa di Sukkot, come scritto nella Torah, ulekachtem lachem, e prenderete per voi le 4 specie, bayom harishon, primo giorno di Sukkot. Per ciò che riguarda invece quando c'era il Beit HaMikdash, il prendere il lulav il primo giorno, anche se dovesse venire di Shabbat, cosa succede di Shabbat? Si prende il lulav o non si prende? Quando c'era il Beit HaMikdash, se il primo giorno dovesse cadere di Shabbat, si faceva sì la mitzvah del lulav anche fuori dal Beit HaMikdash. Quando c'era il Beit HaMikdash, e quindi noi facevamo fuori dal Beit HaMikdash la mitzvah dell'Ulav solamente il primo giorno, non gli altri giorni, e quello si faceva il primo giorno anche se fosse venuto di Shabbat, all'epoca. Invece gli altri giorni nel Beit HaMikdash, che solo nel Beit HaMikdash si faceva altri 6 giorni in più, in quei 6 giorni, se dovesse cadere uno Shabbat, quello Shabbat non si faceva l'Ulav neanche nel Beit HaMikdash. Quindi, ripetiamo, quando c'era il Beit HaMikdash, il primo giorno la mitzvah si faceva dappertutto e anche se dovesse essere Shabbat. Gli altri 6 giorni si facevano solo nel Beit HaMikdash e solo quando non era Shabbat. Quindi il giorno di Shabbat, tra questi 6 giorni, se Shabbat viene il secondo giorno, per esempio, non si faceva quel giorno nel Beit HaMikdash. E questo è quando il Beit HaMikdash era in esistenza. Cosa è cambiato dopo che il Beit HaMikdash è stato distrutto? Ora la Mishnah dice: Mi shecharav Beit HaMikdash, dal momento che è stato distrutto il Beit HaMikdash, Hitkin fece istituire Rabban Yochanan ben Zakkai, il maestro del Sanedrin dell'epoca, che era il capo del Sanedrin, Rabban Yochanan ben Zakkai, ha istituito insieme al Beit Din, Sheyehei lulav nital ba medina shiva, che il lulav sia invece preso in tutti gli altri luoghi, che non c'era più il Beit HaMikdash, che sia preso in tutti gli altri luoghi, che si chiama Medina, tutti e 7 i giorni, Zecher la Mikdash, in ricordo di quello che si faceva nel Beit HaMikdash. Lachen asu rak bar yom rishon. La takana è che, anche se c'è scritto solo il primo giorno nella Torah, visto che ci sono dei supporti testuali che dicono, dai quali capiamo che bisogna creare un zecher, un ricordo a quello che si fa nel Mikdash, allora una delle modalità che è stata impiegata, una delle cose che sono state istituite per appunto ricordare quello che si faceva nel Beit HaMikdash, era questo, che Mide Rabbanan, cioè per la mitzvah rabbinica istituita da Rabban Yochanan ben Zakkai, si fa la mitzvah dell'Ulav anche negli altri 6 giorni. Il primo giorno è una mitzvah deoraita, è una mitzvah della Torah, in qualsiasi luogo, quindi ancora oggi e ovunque. Gli altri giorni sono una mitzvah de Rabbanan. Ora vediamo che differenza fa in pratica. Un'altra cosa è che dopo che è stato distrutto il Beit HaMikdash, anche per il primo giorno non si fa il lulav se dovesse venire di Shabbat. Questo sempre per un'istituzione rabbinica di evitare di trasportare il lulav in luogo pubblico, simile a come si dice riguardo lo shofar, che non suoniamo lo shofar quando Rosh Hashanah viene di Shabbat, e simile a quanto si dice riguardo la Megillah, non leggiamo la Megillah quando Purim viene di Shabbat. In pratica, secondo come è disposto il calendario, Purim per noi non viene di Shabbat, anche per questo motivo, ma a Yerushalayim, che Purim può venire di Shabbat, perché lì Purim, o comunque altri luoghi in cui sono città cinte dalle mura dai tempi di Yehoshua ben Nun, Purim viene il 15, quindi per noi Purim potrebbe essere venerdì, il 14 di Adar può venire di venerdì, quindi per loro significa che Purim è il 15, non leggono la Megillah. Leggono domenica. Dochim. si respinge la Megillah domenica, Tezain. Però, per quanto ci riguarda noi, cosa è successo dopo la distruzione del Beit HaMikdash? Rabban Yochanan ben Zakkai ha fatto un'istituzione, tutto il mondo ebraico prenderà il Lulav tutti e 7 i giorni, ma il primo giorno, o qualsiasi degli altri giorni, ma addirittura anche il primo che è Mideoraita, che è una mitzvah della Torah, non si fa il Lulav se dovesse venire di Shabbat. Ora che abbiamo, sì, ora che abbiamo menzionato una istituzione di Rabban Yochanan ben Zakkai per ricordare il Beit HaMikdash, e cioè che è causata dalla distruzione del Beit HaMikdash, ricordiamo un'altra istituzione di Rabban Yochanan ben Zakkai che non sembra c'entra con Sukkot, però è legato al tema delle istituzioni che fece lui dopo la distruzione del Beit HaMikdash. Qual è questa istituzione? Lui istituì anche Vesheyehe Yom Henef Kulo Asur, il giorno in cui si fa Hannafata Omer, il innalzare del Omer, è tutto il giorno vietato di mangiare il frumento. Di cosa si tratta? Allora sappiamo che il secondo giorno di Pesach, il 16 di Nissan, bisognava portare, quando c'era il Beit HaMikdash, Korban HaOmer, Omer di Seorim, il Omer di orzo. E cosa faceva questa cosa? Fino a quel giorno abbiamo un divieto di mangiare il frumento nuovo, della nuova annata, della nuova stagione di produzione di frumento. Quindi è come un'offerta che si fa prima da Kadosh Baruch Hu, e poi possiamo usufruire noi di questo bene che è stato prodotto nei campi. Allora cosa si faceva? Il secondo giorno di Pesach si andava proprio a tagliare, a mietere il Seorim, cioè l'orzo, che quello era il periodo in cui, quello era il periodo in Eretz Israel in cui si matura l'orzo, il grano invece un po' più avanti, a Shavuot, e si mieteva, si prendeva, si faceva la mietitura e poi si prendeva una misura di un omer e si portava al Beit HaMikdash e si faceva Hannafata Omer, questa diramazione dell'omer. Questa cosa fa sì che ci permette di usufruire del prodotto nuovo. Ora, se non c'è il Beit HaMikdash, non c'è la Hannafata Omer, non c'è questa cerimonia, quando è che ci diventa permesso di mangiare il nuovo frumento? Ci possono essere due modi di vedere. Potremmo dire il 16 di Nisan è il giorno in cui diventa permesso. Non c'è il Korban del Omer, allora come inizia il giorno del 16 diventa permesso? Fino al 15 è vietato e il 16 diventa permesso. Rabban Yochanan ben Zakkai ha detto no. Yom Henef Kulo, tutto il giorno in cui sarebbe stata fatta l'Hannafata Omer, questa cerimonia, è tutto vietato. Solo il 17 la mattina diventa permesso. Perché? In teoria potrebbe aver ragione chi pensa di dire già che inizia la mattina è già permesso. Perché deve aspettare tutta la giornata? Allora i maestri spiegano nella Gemara, nel trattato Menachot, che Mina Torah, dalla legge della Torah, forse sarebbe sì permesso mangiare già dalla mattina del 16. E questo invece è una istituzione di Rabban Yochanan ben Zakkai per dire che cosa? Che non si può, perché? Siccome noi crediamo che presto sarà ricostruito il Beit HaMikdash, Meherah Yibaneh Beit HaMikdash, e noi arriveremo al 16 di Nisan e diremo scusa, l'anno scorso abbiamo mangiato il frumento nuovo già dalla mattina del 16 di Nisan, grazie. Già dalla mattina. Sicuramente è permesso anche quest'anno già dalla mattina. E quindi non ci si accorgerà che bisogna attendere l'orario in cui è stato fatto l'Hannafata Omer nel Beit HaMikdash. Di conseguenza Rabban Yochanan ben Zakkai ha detto Ad aviachem et korban elokechem, come è scritto nella Torah. Finché non sarà portato la parte che è in offerta in korban ad Hakadosh Baruch Hu, non diventa permesso. Per evitare un problema quando Bezrat Hashem presto sarà costruito il Beit HaMikdash, di confusione nostra, allora tutto quel giorno, Rabban Yochanan ben Zakkai dice, diventa vietato per l'Omer. Per il frumento ancora nuovo, si permette solo dal giorno successivo. Ok? Ora torniamo a parlare dell'ulav. Mishnah Yud Gimel. La Mishnah dice così. Yom Tov Arishon Shel Chag Shechal Yot B'Shabbat. Cosa succede quando il primo giorno di Sukkot viene di Shabbat? Abbiamo detto che nel Bet HaMikdash si fa la mitzvah. Quando c'era il Bet HaMikdash si faceva sì la mitzvah dell'Ulav il primo giorno di Sukkot, anche se era Shabbat. Come ci si comporta però? Allora i maestri spiegano nella Mishnah. Kol ha'am molichin et lulavehen levet ha'kneset. Tutti devono portare i loro lulavim al Bet ha'kneset prima che entra Shabbat, il giorno prima. Perché è permesso fare la mitzvah dell'ulav, significa che è permesso prenderlo in mano per fare la mitzvah. Ma non è permesso trasportarlo in luogo pubblico. Quella parte lì non è che diventa permessa. Quindi tu non puoi portare l'ulav da casa al tempio sabato mattina quando c'è il Bet HaMikdash e si fa la mitzvah dell'ulav. È permesso fare la mitzvah dell'ulav, ma non diventa anche permesso trasportarlo in luogo pubblico. Di conseguenza i maestri dicono bisogna portare l'ulavim al tempio, al Bet HaKneset, prima che entra Shabbat. La machorat, l'indomani mattina che è Shabbat, la boker la mattina, mashkimin uvain, si svegliano presto e vengono al Bet HaKneset, e questa è una cosa molto importante, kol echad ve echad makire celo. Ognuno deve riconoscere qual è il suo lulav che ha portato da ieri, deve mettere l'etichetta o qualche segno di riconoscimento da prima, per capire qual è il suo proprio lulav. Perché? La Mishnah spiega, e molti sappiamo. Venotlo e fai la mitzvah. Perché? Nei shamru chachamim, visto che i maestri hanno spiegato e hanno detto. Ein adam yotze yedei chovato bi yom tov arishon shel chag. L'uomo non può uscire l'obbligo della mitzvah dell'ulav durante il primo giorno di Sukkot be lulavo shel chaverò, con il lulav che appartiene al suo prossimo, ad un altro. Perché la Torah dice ulkachtem lachem bayom rishon, e prenderete per voi, i maestri dicono cos'è questo per voi, lachem viene ad indicare mishel lachem, che sia dal vostro, da qualche cosa che è in vostro possesso, che appartiene a voi. E quindi la Mishnah ha detto che ognuno deve riconoscere il proprio lulav e con quel lulav appunto fare la bracha il primo giorno di Sukkot, che era Shabbat, era stato lasciato da prima di Shabbat al Tempio. Ushe'ar yemot ha'chag, ma per ciò che riguarda gli altri giorni del Moed, allora riguardo gli altri giorni, Adam yetzeye dechovatob lulavo shel chaverò, si può uscire l'obbligo anche con il lulav di un'altra persona. Perché si spiega nei Rishonim che il lachem, il fatto che deve essere di tua proprietà, è legato solo a il Yom HaRishon, come detto nella Torah, ulekachtem lachem bayom HaRishon. Il lachem è applicato al Yom HaRishon. Gli altri giorni non è necessario. E anche il primo giorno, se una persona non ha un lulav o ha un dubbio di chi è, può dare un dono, un regalo, il lulav, io do a te il lulav, ben matana, come regalo, in modo tale che sia tuo per fare la mitzvah, al menat le achazir, anche con la condizione di farla ridiventare mia dopo che tu fai la mitzvah, e la persona esce l'obbligo della mitzvah anche in questa maniera. Vishatatchak. Aval im, se non ha ridato poi l'ulav, allora la mitzvah che ha fatto non è valida. Perché? Abbiamo detto all'inizio del perekime, l'ulav hagazul. Un lulav che è rubato, cioè usato senza permesso e non è di tua proprietà, non si esce l'obbligo. Allora deve poi essere sicuro di ridare al proprietario originale il lulav. Sì, però sì? Il fatto che uno dice il lulav deve essere fatto per sé, non come se uno se lo dovesse essere... No, deve essere semplicemente acquistato. Acquistato, sì. Sì, per cui anche il regalo è un acquisto praticamente. Assolutamente. Oh, questa è un'ottima osservazione. Cosa significa acquisto? Nella halakha ci sono diverse maniere per acquistare qualcosa. Non sempre significa che ci deve essere un trasferimento di denaro. Noi quando pensiamo acquisto pensiamo a trasferimento di denaro. Halakhicamente non è così. Halakhicamente ci sono diverse forme di acquisto. Il fatto che io do un regalo a te e tu lo acquisisci alzandolo, per esempio, questa è una forma di acquisizione halakhicamente valida. Ok? Grazie a te, è una buona osservazione. Ora Mishnah Yudalet, cerchiamo di finire il capitolo, due Mishnayot. Yudalet 14, Rabbi Yosè Omer. Disse Rabbi Yosè, Yom Tov HaRishon Shel Chag Shechal Yot BeShabbat. Se è successo che il primo giorno del Moed di Sukkot è venuto di Shabbat, Veshachach, e l'uomo si è dimenticato, Vehotzi et alulav lirshut harabim, e ha preso il lulav e l'ha messo in reshut harabim. Cioè, l'ha portato in luogo pubblico. Allora la Mishnah dice patur. Patur significa non è passibile del chattat. Chattat significa un korban di espiazione che una persona deve portare quando fa una melachah di Shabbat beshogeg, non volutamente, che involontariamente si è dimenticato e poi si è accorto ho fatto questa cosa. Allora normalmente c'è il korban chattat. In questo caso, dice Rabbi Yosè, non c'è, mipnei sheotziyo birshut, perché l'ha fatto con il permesso. Cosa significa con il permesso? Significa con il permesso, cioè, siccome c'era il permesso di fare la mitzvah, allora di conseguenza si giustifica in qualche maniera questo errore ed è patur dal chatat.